Storiacce di Raffaella Calandra. Dopo l'attentato di Parigi abbiamo visto, seguendo i money transfer, noi abbiamo ricostruito una rete che, partendo da uno degli attentatori di Parigi, è finita in Italia. Ci sono indagini in corso, ma ci sono indagini in corso sulla rete di trasferimenti money transfer che sono partiti dall'attentatore di Parigi e sono finiti da un tizio che stava qua in Italia. Da questo tizio ci sono stati altri trasferimenti money transfer verso altri soggetti che stanno in Italia e che stanno all'estero. Stiamo ricostruendo una rete che può essere una rete associativa. I soldi dei terroristi di Parigi sono dunque passati anche attraverso l'Italia e sono passati attraverso le agenzie che migliaia di stranieri usano per mandare a casa i loro risparmi. Ma esiste un problema money transfer? Davanti alle insegne colorate vediamo, soprattutto di sera, piccole folle di ogni nazionalità. Sono le colf che puliscono le nostre case, le badanti che aiutano i nostri anziani, uomini quasi sempre che parlano le più diverse lingue. Ma attraverso queste agenzie, soprattutto quelle minori, mescolate ai piccoli risparmi che attraversano oceano e fusi orari, viaggiano anche i finanziamenti al califfato. È già successo anche in passato e su questo si indaga anche ora. Ma partono dunque anche da sotto casa nostra i soldi per i terroristi? Con questa domanda inizia questa puntata di Storiacce. Hai usato spesso servizi per trasferire denaro? Sì, sicuramente sì. Ho usato, ma però poco. Gli mando 50 euro ogni mese. Quanto sei riuscito a mandare, più o meno? Credo il massimo 500 euro a volta. 500 euro, qualcosa del genere, non di più. 300 euro. 100 euro a mese, il massimo, capito, per il padre e il madre. Adesso questo momento poco, non è come prima. La colf che manda i soldi ai genitori per far andare i figli a scuola. L'operaio che spedisce metà dei suoi guadagni per aiutare il resto della famiglia rimasto dall'altra parte del mare. Ci sono storie di partenze, di addii e di sacrifici quotidiani registrati dal microfono di Daniele Zinni dietro questi mucchietti di banconote consegnate agli sportelli delle agenzie di money transfer. Ma ogni tanto, confusi tra i risparmi dei circa 4 milioni di stranieri ora presenti in Italia, ogni tanto, dicevo, è stata trovata traccia anche di passaggi poco chiari, indizi cioè del transito di soldi gestiti da terroristi o finiti a persone o associazioni sospettate di pagare i jihadisti. Nel 2015, riferisce l'ultimo rapporto dell'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia, sono state 2.268 le segnalazioni mandate, con oltre 200.000 operazioni sospette. Passaggi anomali di soldi, per varie ragioni, e i più rischiosi, il 13% del totale, riguardano persone sotto inchiesta anche per fatti di terrorismo. 13 in totale le indagini aperte in tutta Italia, 5 vedono la collaborazione di Palazzo Koch. Di sicuro seguire i flussi di soldi destinati al terrorismo resta la regola fondamentale di ogni attività di indagine, anche quando gli attentati vengono realizzati con poche centinaia di euro, come ricorda Ranieri Razzante, consulente delle commissioni parlamentari e direttore, tra l'altro, dell'Associazione Italiana di Responsabili Antiriciclaggio. Si parla di una media tra i 10 e dai 10.000 minimo, insomma, per un attentato, e arriviamo, va bene, ai 500.000 presunti delle Torri Gemelle, ma i costi sono molto limitati rispetto al danno che si può fare. I meccanismi che hanno inventato i terroristi, come le hawala e i meccanismi informali di trasferimento delle somme, molti sfuggono spesso a controllo. Quali sono stati fino adesso i canali utilizzati per l'invio di denaro che doveva servire a finanziare atti terroristici? Senz'altro i money transfer figurano in cima alla lista dei soggetti che possono, per modalità operative, agevolare i passaggi di denaro. Una seconda modalità di finanziamento è l'utilizzo di carte prepagate, le carte di credito. Negli stati a più alta densità di presenza di terroristi abbiamo riscontrato che la vendita è assolutamente libera. Anche il fruttivendolo in Iraq, in Iran, in Pakistan, piuttosto che in Siria, può vendere carte prepagate. Ricordiamoci che anche nella vicenda dell'attentatore che poi è stato inseguito e catturato Salam, una delle tracce è stata la traccia dell'utilizzo di carte di credito. I terroristi non si servono esclusivamente del contante, il contante è maggiormente tracciabile. A questo voglio aggiungere il fundraising attraverso internet, cioè ci sono molte associazioni caritatevoli o pseudo tali che si prestano a collette che invece vanno a finire ai terroristi. Un'altra modalità è far circolare per esempio metalli preziosi o diamanti con cui si pagano le prestazioni, invece anche qui del denaro che è più tracciabile. Questa è una modalità di finanziamento che è stata riscontrata per esempio in alcune indagini, una 3 anni fa partita anche da Milano, dove attraverso una serie di società offshore che si passavano fra di loro delle commesse, a fronte di una serie di fatturazioni false evidentemente, si era arrivati che questi bonifici entravano nella disponibilità di soggetti, ovviamente di grandi organizzazioni internazionali terroristiche, attraverso la conversione di questo denaro in acquisto di diamanti. Io ci aggiungo anche i bonifici. I money transfer dunque, prima di tutto, anche per una questione di numeri e proporzioni, fino a 1000 euro è possibile spedire con ogni transazione e per ogni operazione è necessario un documento. Tutti i limiti posti proprio per rendere il più tracciabile possibile il cammino dei soldi, ma a volte dietro importi frazionati in piccole somme o spediti a molte controparti anche di paesi diversi da quello di origine del mittente si nascondono operazioni sospette. In realtà le 3 principali agenzie di money transfer, MoneyGram, RIA e Western Union, collaborano e molto nel segnalare passaggi anomali, ma non così fanno gli altri. E d'altra parte, con sempre più persone che si spostano, il business dell'invio dei soldi è destinato a crescere ancora. Si stima che nel 2018, pensate, saranno 650 miliardi in totale le rimesse, settore in crescita anche in Italia, come hanno riferito i 3 principali rappresentanti in un'audizione alla Commissione Finanze. Oggi esistono circa 250 milioni di persone che non vivono nel loro paese natale. Nel 1970 erano circa 80 milioni. Su un totale di circa 580 miliardi di rimesse, circa 432 miliardi sono verso i soli paesi in via di sviluppo. Il totale delle rimesse si prevede nel 2018 arrivare a 650 miliardi. In Italia il mercato è di circa 5 miliardi di euro, costante negli ultimi 3 anni, e viene realizzato attraverso circa 35.000 punti vendita, che includono sia gli sportelli bancari sia gli uffici postali. Noi verifichiamo anche sui nostri sistemi eventuali comportamenti anomali, ad esempio picchi di transazioni troppo vicine l'uno all'altra. Il mercato cinese ha rappresentato proprio questo tipo di situazione, nel quale a livello di settore abbiamo trovato una rischiosità che non era accettabile per i nostri standard e quindi abbiamo deciso di chiudere o di limitare fortissimamente questo settore. Il punto debole, per loro stessa ammissione, è il punto finale, riuscire a individuare l'effettivo destinatario di quei soldi, se cioè dietro quella persona o dietro quell'associazione a cui l'immigrato X invia i suoi soldi ci sia effettivamente chi si denuncia o piuttosto soltanto un'associazione di facciata. E per questo non si può che sollecitare quanta più possibile collaborazione tra paesi, riflette Armando Spataro, procuratore capo di Torino, tra i magistrati più esperti di lotta al terrorismo. Assoluta necessità di collaborazione anche delle autorità degli stati da cui il terrorismo proviene, in Nord Africa ma anche in Medio Oriente eccetera, perché non si può assolutamente affermare che il trasferimento attraverso questo meccanismo di una somma di denaro da, che so, un cittadino marocchino o siriano alla sua madrepatria a certi nomi equivalga a un trasferimento a scopo di finanziamento di terrorismo. Bisogna provare intanto che sia terrorista chi dispone il trasferimento. Poi il finanziamento in realtà si dovrebbe ipotizzare anche nella direzione opposta, e cioè che le organizzazioni internazionali che operano nei loro territori d'origine invino poi denaro in Europa o in altri posti per organizzare attentati. Certo. Qui le indagini sono più numerose, però io non mi sento ancora di giungere ad affermazioni conclusive. Abbiamo certo accertato in passato, anche parlo dello scorso decennio quando lavoravo a Milano, delle ipotesi ipotesi di questo tipo, ma non in modo tale da potersi affermare che massicciamente vi fosse un finanziamento del terrorismo attraverso questi canali. Compiono attentati che non richiedono affatto grandi somme di denaro, però procuratore, esatto. Il problema che lei pone è quello della collaborazione con i paesi di destinazione eventualmente di provenienza, però nell'Italia e in altri paesi europei hanno accordi di collaborazione giudiziaria né di alcun tipo, questo rappresenta il punto debole. Molto spesso si ritiene che questi tipi di accertamenti attengano a livello della cosiddetta intelligence anziché essere destinati a travasare in inchieste giudiziarie. Io mi augurerei che sul piano delle istituzioni internazionali e comunque sul piano politico ci si muovesse mettendo in evidenza la necessità di una collaborazione rapida, immediata, spontanea, che riguarda anche il finanziamento, altrimenti noi continueremo a viaggiare sull'onda di affermazioni del tipo non si può escludere che sul piano tecnico e anche sul piano dell'analisi scientifica e investigativa equivale a niente. Lavoriamo sui trasferimenti di denaro, sulle persone sospette, ma con attenzione, con la nostra capacità, la tradizione investigativa italiana che dovrebbero essere esportate in Europa, consentono di fare. Ma se i paesi non riescono a collaborare su alcuni temi neanche all'interno dell'Unione Europea, come fare con gli stati dove sono presenti le principali cellule terroristiche? Come continuare a tutelare un servizio fondamentale per i migranti, per mandare i soldi a casa e cercare allo stesso tempo di individuare il finanziamento al terrorismo, che ultimamente si serve però anche delle carte di credito prepagate? Da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Storiacce. Purtroppo negli attentati da New York fino a Parigi e Bruxelles siamo arrivati tardi nel ricostruire, ma ci siamo arrivati. Dopo l'attentato di Parigi abbiamo visto, seguendo i money transfer, perché poi ci sono anche le società di importanti money transfer che sono molto collaborative, devo dire. Qui parliamo delle agenzie. Noi abbiamo ricostruito una rete che, partendo da uno degli attentatori di Parigi, è finita in Italia. Ma ci sono indagini in corso sulla rete di trasferimenti money transfer che sono partiti dall'attentatore di Parigi e sono finiti da un tizio che stava qua in Italia. Da questo tizio ci sono stati altri trasferimenti money transfer verso altri soggetti che stanno in Italia e che stanno all'estero. Stiamo ricostruendo una rete che può essere una rete associativa. Può essere un gruppo, diciamo, predisposto a compiere atti di terrorismo nel nostro paese o in altri paesi. Voglio dire, il sistema dei flussi di finanziamento ci aiuta in questa ricostruzione anche delle reti di potenziali terroristi. Dalle Torri Gemelli al Bataclan ci sono sempre dei passaggi di soldi dietro i principali attentati. E l'analisi del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti riapre una questione ben nota sulla trasparenza dei money transfer, negli ultimi tempi sempre più controllati, a dire il vero, dagli organi di vigilanza italiana. E anche per questo le agenzie hanno spostato il loro intermediario, soprattutto in Gran Bretagna e Irlanda, paesi con minori controlli, da quando la PSD2, la norma che liberalizza il mercato e rende sufficienti avere un intermediario in un qualsiasi paese dell'Unione e non più in ogni Stato. In Italia così ora restano solo i cosiddetti agenti, i botteghini, per dirla a parole povere, che vediamo ovunque nelle nostre città. 20.000 in totale, come questi visitati da Daniele Zinni. Sì, lo mando perché loro lì non lavoro, io con chi mantenere loro. Anche magari agli amici? Anche agli amici. Mando agli amici ogni tanto. Mai pensato anche di mandare denaro magari a associazioni, organizzazioni, benefiche religiose? No, ma la famiglia è stato solo per la mia famiglia. Se a mesi faccio 1200-1300, non è rimasto soldi per mandare in Egitto i genitori, il massimo 100 euro, anche magari non ce la faccio, capito? Come dicevamo anche nella prima parte di Storiacce, oltre ai money transfer, le attività di controllo e i rischi anche nelle indagini antiterrorismo si stanno ultimamente concentrando sempre più sulle carte prepagate. E una delle spie sono operazioni improvvise e poco giustificate rispetto all'ordinaria operatività, eventualmente reiterate, concentrate in un ristretto arco temporale e, a quanto scrivono gli 007 di Banca d'Italia, un'altra spia è l'ammontare complessivamente consistente rispetto al profilo economico del cliente. Tutti indizi studiati anche dall'osservatorio antiriciclaggio diretto da Ranieri Razzante. Entriamo anche nel famoso mondo, famigerato mondo dello shadow banking, cioè quel sistema finanziario ombra che si alimenta, dicevo, sia con queste società che fanno, ricevono finanziamenti, quindi attraverso così, insomma, del semplice crowdfunding. Poi questo denaro arriva attraverso banche compiacenti. In quegli stati la vigilanza sulle banche e gli intermediari finanziari diversi dalle banche è molto blanda. Fanno arrivare i soldi anche, perché no, attraverso dei cash couriers, cioè dei trasporti, dei portavalori, insomma, o facendoli passare attraverso dei viaggiatori che portano il denaro a seguito. Non si può permettere che non vi sia una regolamentazione in questi paesi delle transazioni finanziarie e delle transazioni commerciali. Abbiamo detto che i money transfer sono però, diciamo, nascono per permettere a tutti gli stranieri che vivono nelle nostre città di poter mandare le loro rimesse, i loro guadagni alla famiglia rimasta a casa. Quali sono, diciamo, gli stratagemmi attraverso cui in questo sistema si riesce ad insinuare anche il finanziamento al terrorismo? Voglio dire, sono stati messi anche dei tetti. I tetti all'invio di soldi, lei dice benissimo che è da noi in Italia 1000 euro, molti invii frazionati, lo smurfing e le tecniche di frazionamento sono le più utilizzate. Nessuno sospetterà mai, o pochi sospetteranno, di invii fatti da un soggetto 100, 200 euro, 300 euro alla volta, periodici, perché non appena, giustamente, molti lo fanno, dobbiamo dirlo, guadagna dei soldini, rimanda la famiglia. Ma tra questa miriade di invii si può nascondere la colletta, perché arriva il soggetto che poi prende queste somme e le fa avere a coloro che purtroppo devono utilizzarle per scopi terroristici o comunque per scopi eversivi. Il problema di questioni come la lotta al terrorismo, che ha dimensione internazionale, è sempre lo stesso. Gli strumenti diversi, cioè, che ciascun paese adotta all'interno del suo confine, anche nella stessa Europa. Così è lo stesso direttore dell'unità di informazione finanziaria di Banca d'Italia, Claudio Clemente, ad ammettere davanti alla Commissione parlamentare che l'attuale quadro normativo non favorisce un'adeguata conoscenza su tutti gli operatori e in particolare su quelli esteri, che costituiscono la gran parte del mercato. Allora tutto sembra diventare vano se le inchieste di uno Stato si bloccano davanti ai confini. E d'altra parte, avverte il procuratore capo di Torino Armando Spataro, bisogna sempre distinguere tra ciò che è accertato e ciò che rappresenta solo un'ipotesi. Nel quale troppo spesso si intromettono argomenti di facciata che rischiano di avere l'efficacia solo dell'annuncio. Faccio un esempio: si è parlato in passato di finanziamento attraverso il narcotraffico, non ce n'è la minima prova, ma assolutamente nessuna, neppure in Europa. Si parla anche del finanziamento del terrorismo attraverso il traffico di immigrati clandestini. Sì. Questo è un altro tema tutto da dimostrare, perché se è vero che vi sono organizzazioni criminali che sfruttano anche la disperazione di chi accetta di partire per l'Europa a costo di morire affogato nel Mediterraneo, se è vero dunque che ci sono criminali comuni, tutto da dimostrare è che parte o buona parte dei soldi che questi criminali guadagnano finiscano al terrorismo. Ci sono delle indagini in corso, ma questo significa ancora avere acquisito la certezza. Con lo spostamento di soldi, con le intermediazioni e pure con le cattive intenzioni dietro i viaggi di denaro si confrontavano già gli antichi. Linea allora a questo punto alle nostre mitiche storiacce e a Giorgio Ieranò, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. C'è un dio che vola attraverso il cielo portando sempre attaccata alla cintola una borsa di denaro. Ed è lo stesso dio che è raffigurato nel bronzo delle monete romane più antiche. È il dio Mercurio, l'Hermes dei greci. Tutti sappiamo più o meno chi era il messaggero degli dei che attraversava il cielo con i suoi sandali alati, ma era anche il signore di tutti gli scambi e di tutte le relazioni. A partire dalla relazione tra i morti e i vivi, portava lui le anime dei morti nell'aldilà, o con il mondo dei sogni. Prima di addormentarsi i greci lo invocavano perché mandasse dei bei sogni. Occupandosi di scambi, si occupava anche degli scambi economici, sia quelli legali sia quelli illegali. E infatti Hermes Mercurio era al tempo stesso il dio dei ladri e il dio dei commercianti. A volte basta guardare dentro le parole che usiamo ogni giorno per trovarci le tracce di un mito. La stessa parola merce è connessa al nome Mercurius. E anche il nome moneta in origine era il nome di una divinità della memoria, talvolta identificata con Giunone. A Roma la zecca era annessa appunto al tempio di Giunone Moneta, ed è per questo che noi ancora oggi chiamiamo i soldi monete. Anche se in origine, come si sa, non c'erano monete di metallo come quelle che Hermes portava nella sua borsa. I mezzi di scambio erano per esempio il bestiame, e anche di questo c'è traccia nelle nostre parole. Pecunia deriva da pecus, che significa gregge, capitale da capita, teste, perché una volta la ricchezza si contava appunto sul numero dei capi di bestiame, era quello il denaro, e per fare trasferimenti di capitale a quel tempo bastava spostare le vacche. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e su Twitter l'account Raf Calandra. Fateci avere anche le vostre segnalazioni. Ciao a tutti, a presto!